Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Mari di sangue. A tempo debito, Wilkie condusse Frederica su in camera, dove il copriletto era stato tolto e l'angolo del lenzuolo accuratamente ripiegato. «Beh», disse, «prima o poi dovremmo deciderci a entrare in quel letto». Vi entrarono dopo essersi lavati e spogliati con discrezione. Wilkie si diresse nudo verso il letto. Frederica lo sbirciò. C'era odore di dentifricio, un lieve afrore inumano e di sapone e una vaga corrente tra i loro corpi. Wilkie, di spalle, con i muscoli del collo tesi per la concentrazione, fece un rumore di carta e lattice. «E adesso stammi a sentire», le disse. «Sarò scientifico. Ti spiego come funziona. Quello che dà piacere alle donne, quello che dà piacere a me. Così tu non ti spaventi e io posso goderne, se procediamo con delicatezza e attenzione. D'accordo?» Frederica annuì. Wilkie si mise seduto, servendosi di lei quasi come di un modello dimostrativo per una lezione di biologia umana. La toccò in certi punti, con dita asciutte e delicate. Era gentile, dogmatico e autoritario. Anni dopo, Frederica avrebbe scoperto che la conoscenza di Wilkie sul sesso in generale e sulle sue reazioni in particolare non era esaustiva quanto lui pretendeva. Allora gli fu grata perché appariva esperto e sicuro di sé. In seguito finì con l'essergli grata anche per averle insegnato a fare altre scoperte con analoga disinvoltura. Da principio Frederica si meravigliò dei sussurri descrittivi che lui le faceva all'orecchio. Wilkie non la baciò, riteneva che fosse un'intimità inopportuna. «Oh», disse Wilkie, «tutto bene?» «Sì», disse Frederica serrando appena le labbra. Wilkie grugnì e si agitò dentro di lei per un po'. «Ti piace?» «Oh, sì», disse Frederica, che non lo trovava né particolarmente piacevole né particolarmente spiacevole, ma era lieta che stesse finalmente succedendo. «Ti piace?» «Sì», disse Frederica, aggrottando le sopracciglia per la concentrazione. Provava un vago fremito di eccitazione, un abbandono, uno stordimento del ventre, come quando si scende velocissimi da uno scivolo, un principio di ebbrezza. Soffocò tutto ciò con decisione, sentendo con il corpo, al di là delle capacità della mente, che al fondo di quelle ondate di sensazioni c'era una resa, una rinuncia alla sua autonomia alla quale non era disponibile. Wilkie le toccò i seni, gesto che le ricordò Crow, poi le mormorò: «Felice?» «Sì?» «Molto bene». Frederica, con un temporaneo senso di nausea, pensò alla descrizione di Lawrence dei rigogliosi cerchi di piacere di Constance Chatterley. Ciò che lei provava erano fievoli linee verticali di solletico localizzato, messaggi elettrici interrotti che si affrettava a soffocare. Wilkie smise di parlare. Frederica ne osservò il viso con interesse. La bocca spalancata, gli occhi chiusi, il respiro affannoso. Il piccolo ventre grasso era caldo e sudato sopra il suo. Dopo un po', ebbe una repentina accelerazione e all'improvviso emise un gemito molto forte, molto rilevato, e per un attimo abbandonò pesantemente il capo sul suo petto, con aria trasognata ed esausta. Frederica sentì una sorta di palpito, un brivido dentro, forse di Wilkie, forse suo, non lo capì con certezza. Sentì anche un lieve dolore, una pulsazione infuocata. «Tutto bene», le disse con voce roca e respiro pesante. «Oh, sì». «Non sei venuta?» «Mi dispiace», nonostante i pensieri di poco prima su Lady Chatterley, non sapeva cosa significasse. «No, no, probabilmente è colpa mia. Riproveremo. Una volta ho portato in albergo una ragazza che, quando veniva, faceva il fischio di un treno, assordante, orrendo. Venivano a bussare alla porta per sincerarsi che non la stessi ammazzando. Non riuscivo a frenarla. Un vero peccato». Sembrò che scivolasse nel sonno. Frederica adesso guardava la sua nuca e pensava che non l'aveva mai conosciuto meno, mai sentito così distante dalla prima volta che si erano parlati. Aveva imparato qualcosa. aveva imparato che si può fare quello in modo ragionevolmente amichevole e gentile, senza invadere la privacy dell'altro, senza incrinare la sua solitudine. Si può dormire tutta la notte con un estraneo, vedere di lui solo la nuca ed essere più indipendente che in qualunque altro luogo. Buono a sapersi. Liberava le donne dal terrificante out-out che si era immaginata. O amore, passione, sesso, eccetera, oppure vita della mente, ambizione, solitudine, eccetera. A letto si può essere soli senza essere soli, se non si fanno troppe storie. Si sarebbe girata e addormentata anche lei. Ritorni. Bill e Winifred tornarono a Blessford il giorno dopo. Portarono con loro Marcus in ambulanza. Marcus era visibilmente dimagrito e si guardava intorno con aria terrorizzata. Alla vista della casa di Masters Row, cominciò a dibattersi e urlare, agitando le braccia con un'energia impensabile in lui. Poi crollò sulla ghiaia. Lo portarono dentro e lo stesero sul sofà. Quando rinvenne, ricominciò a urlare e dimenarsi. Venne chiamato un medico, tornò l'ambulanza e Marcus ripartì. Dall'ospedale psichiatrico mandarono a chiamare solo Winifred. Frederica e Wilkie trascorsero una giornata in spiaggia. Il vento soffocava gelido e sferzante dal mare del nord. Wilkie lanciava qualche sasso. Frederica gli camminava al lato, vacillando un po'. Wilkie la riportò in albergo, dove rimase raggomitolata a letto, immaginando sguardi di compatimento e curiosità sui volti di cameriere e portieri. Wilkie andò a fare una telefonata e al ritorno disse che la sua ragazza, un po' seccata perché non era riuscita a mettersi in contatto con lui, lo richiamava a Cambridge con una certa urgenza. C'era la possibilità di avere una parte in un allestimento dei Lunatici, il dramma di Middleton e Rowley, al Festival di Teatro Studentesco di Monaco. Perciò, se Frederica non aveva niente in contrario, era il caso di tornare. Alexander fece un sacco di telefonate. Era di ottimo umore. Adesso che era fuori da quel giardino, il suo successo, le sue prospettive, dipendevano interamente da lui. Prese accordi per incontrare quelli della BBC a Manchester e andare a Londra per alcuni colloqui di lavoro e da lì a Oxford per un incarico di ricercatore. Rifiutò il colloquio nella scuola del Dorset. Per il momento ne aveva abbastanza di insegnare. Si fece portare i bauli su dallo scantinato e alcune casse da tè dai magazzini della scuola. Andò dal dottor Tone e diede formalmente le dimissioni. Chiuse a chiave la porta di quercia, mise il cartello «assente» e si dedicò ai bagagli. Daniel ricevette una lettera da Sheffield con una grafia ignota. Quando l'aprì, apprese che sua madre era caduta, si era fratturata malamente un femore e sarebbe rimasta in ospedale per qualche settimana, forse mesi. Quasi certamente non sarebbe stata più in grado di badare a se stessa come prima. Era il parente più prossimo, gli scriveva la direzione dell'ospedale, anzi l'unico parente, sebbene lei non avesse fatto il suo nome. Daniel andò alla stazione e prese il primo treno per Sheffield. Il piccolo Thomas Perry sviluppò una brutta infezione all'orecchio medio, con febbre altissima, e urlò ininterrottamente per 5 notti e 5 giorni. Goffo, Federica e Jennifer, fecero spugnature fredde, cercarono di farlo bere, vegliarono su di lui. Lo psichiatra disse a Winifred che la causa scatenante dei problemi di Marcus era il terrore del padre. Era dunque consigliabile che trascorresse la convalescenza altrove, con persone comprensive e meno ansiose, se possibile. Preferiva non trattenerlo in ospedale, perché il posto non gli avrebbe giovato. Inoltre, gli ricordava gli spiacevoli rapporti con Lucas Simmons, un uomo molto malato che era meglio affidare alle cure di specialisti. Con la velocità consentita a una motocicletta, Frederica e Wilkie tornarono a Blessford e percorsero rombando Masters Row. In direzione opposta, dietro l'autobus di Blessford, veniva la Triumph metallizzata di Alexander. Aveva, come mai prima, un portapacchi che era stato caricato con cura e coperto con un'incerata. Frederica riuscì a distinguere benissimo Alexander, pettinato, sorridente, intatto e distante dietro il vetro verdastro. Alexander vide abbastanza bene Wilkie, o almeno ciò che il casco e gli occhialoni lasciavano intravedere di lui, e la fulva chioma scomposta del suo passeggero, ovviamente riconoscendo Frederica. Continuò a guardare la strada e continuò a sorridere, così non vide, davanti al cancello del suo giardino, Jennifer Perry che agitava la mano in concitati segni di saluto. Non era nella natura di Alexander lasciare ad altri l'epilogo, la crisi o il climax cui forse avrebbero avuto diritto nella vita, sebbene fosse perfettamente consapevole che nell'arte certi momenti vanno condivisi. Per lui ogni fine, al pari di ogni inizio, era un evento solitario. Accelerò e si allontanò più in fretta. Wilkie aiutò Frederica a scendere, si riprese il casco, lo fissò al sellino posteriore. «Serve alla mia ragazza», disse, e sollevò la visiera per baciarla. «Ci rivedremo?» chiese Frederica. «È probabile, il mondo è piccolo. Abbi cura di te». Chiuse anche la faccia in una protettiva gabbia di plastica e rimontò in sella. Frederica rimase a guardarlo mentre si dirigeva rombando nella stessa direzione di Alexander. Scorgendo Jennifer Perry nelle aree del giardino, trasse alcune conclusioni in merito al portapacchi e al comportamento di Alexander. In casa fu accolta dalle urla di suo padre. Voleva sapere dove era finita questa volta, perché aveva lasciato tutto quel disordine in casa, cibi neppure cucinati in ogni angolo della cucina, e perché, aprendo la porta finestra, si era trovato davanti quelle bottiglie di vino in frantumi. In giardino regnava la stessa spaventosa confusione. Neanche sua madre era riuscita a spiegarselo. L'unica spiegazione plausibile era che avesse fatto baldoria con i suoi amici snob. Una telefonata le tolse il fastidio di rispondere ai rimproveri di suo padre, dandole il tempo di fare una qualche luce sui possibili sentimenti e sulle mosse di Alexander. Bill andò a rispondere e tornò abbattuto e sconsolato. «Era sua madre», disse, e le riferì la diagnosi dello psichiatra di Marcus, di cui aveva appena saputo da Winifred. Aggiunse che era convinto che la sua famiglia avesse capito che non tutte le cose che lui diceva o faceva andavano prese sul serio. Con il pensiero ancora rivolto ad Alexander, Frederica replicò con sarcasmo che Marcus evidentemente non l'aveva capito, e neppure Stephanie. Ma lei, Frederica, era fatta di un'altra stoffa e non dubitava che in una simile circostanza non avrebbe fatto una tragedia per un paio di costolette crude sul tavolo di cucina e qualche bottiglia di vino nell'aiuola del giardino. Vedendo l'espressione di suo padre, Frederica provò una fitta di pietà e più di una di paura. Cercò una soluzione pratica. «C'era Daniel», disse. Sembrava che Marcus si fidasse di Daniel. Forse lui e Stephanie avrebbero potuto occuparsi di Marcus fino a quando non si fosse ripreso. Bill disse cupo che in quel minuscolo appartamentino non c'era posto per un'altra persona, già stentavano a starci due adulti e un bambino, e poi Daniel aveva fin troppe cose da fare. Frederica gli fece notare che con Daniel non si poteva mai essere sicuri che avesse abbastanza da fare. Bill corrugò la fronte pensieroso, poi si infilò il cappotto e corse alle case Arkwright. Comunque gli Orton non avrebbero potuto restare in quell'appartamento. Al ritorno da Sheffield, Daniel disse che temeva che avrebbero dovuto tappare sua madre a tempo indefinito. Il signor Allenby trovò loro una casetta operaia in un quartiere di Blessford, dove giovani coppie della media borghesia restauravano quel tipo di abitazioni, facendone la prima casa della loro vita, e suggerì a Daniel di farla ridipingere da quei fannulloni del circolo giovanile. Dopo la sorpresa per l'irruzione di Bill, le sue lacrime di autocommiserazione, il drammatico racconto della malattia di Marcus e del proprio senso di colpa, Stephanie disse a Daniel che era loro dovere ospitare suo fratello, se lui acconsentiva, tanto quanto la madre di Daniel. «Sicuro», disse Daniel. «L'avrebbero ospitato senz'altro, se era quello che voleva». Quando andò in ospedale a chiederglielo, Marcus accettò. Furono le sue uniche parole in tutti quei giorni. Arrivò l'autunno, faceva sempre più freddo. Marcus andò a vivere nel piccolo appartamento degli Orton. In attesa che la nuova casa venisse ultimata, dormiva sul divano del soggiorno. Frederica tornò al liceo di Blessford e cominciò a prepararsi per gli esami di ammissione all'università. Si era resa conto all'improvviso che Alexander se n'era andato per sempre. Si sentiva umiliata, ma anche liberata dalla tensione della sua presenza, del suo desiderio, delle possibili crisi. Si sentiva autonoma. Scoprì, e fu la lezione più utile di quell'estate, che era capace di tenere separate le cose, le persone. Era capace di sdraiarsi sul suo letto e piangere per Alexander, anche per Wilkie e persino per Astrea, ma poi si alzava trovando dentro di sé grandi riserve di energia e concentrazione da spendere con entusiasmo nel proprio lavoro. Era felice di essersi lasciata alle spalle, seppur in quel modo terribilmente goffo, il problema della verginità. Ciò che la turbava e sconcertava era il cambiamento dei suoi genitori. Bill aveva annullato molte lezioni e passava il suo tempo aggirandosi nervosamente per casa in pantofole. Non parlava con nessuno. Spesso apriva la bocca e la richiudeva senza proferire parole, come se le soffocasse. Winifred restava a letto giornate intere. Frederica resisteva a tutto ciò per trovare una via di uscita e per amore dei libri. Ma una sera, temendo che pericolose emozioni si infiltrassero tra le laminazioni della sua attenzione, decise di andare da Daniel e Stephanie per vedere di persona come stava Marcus, che cosa si poteva sperare o temere. Venne ad aprire Daniel. Non sorrise, ma la fece entrare. Lei disse con vivacità: «Sono solo passata a trovarvi in casa, c'è un'atmosfera insopportabile, opprimente». Daniel avrebbe potuto dire lo stesso, ma non lo fece. Disse: «Beh, siediti, visto che sei qui. Ti preparo una tazza di tè». Stephanie e Marcus erano seduti sul divano, in silenzio, il corpo esile di lui appoggiato e sostenuto in uno strano modo dal corpo gonfio di lei. Stephanie le fece un cenno di saluto, come se Marcus fosse un bambino o un invalido da non disturbare. Marcus non diede segno di vederla. Da quando Marcus viveva con loro, la vita degli Orton era completamente cambiata. I primi due giorni Marcus era rimasto appiccicato a Daniel e piagnucolava come un bambino ogni volta che lui si allontanava. Stephanie si era accorta con dispiacere che ciò infastidiva Daniel e aveva cercato di attirare su di sé l'attenzione di Marcus. Restava seduta accanto a suo fratello per lunghe ore, in un silenzio immobile e innaturale, come un tempo faceva con il piccolo Malcolm Haydock. Del resto, non era molto diverso. Un giorno gli aveva detto che Lucas Simmons era stato di nuovo trasferito ed era apparentemente più calmo. Marcus aveva chiesto se Lucas era stato maltrattato e quando gli assicurarono di no, aveva offerto a Stephanie la propria versione delle sue paure per Lucas e per se stesso, delle speranze infrante di Lucas, i fotismi, le trasmissioni, la luce. Stephanie non aveva capito molto, ma essendo convinta, forse a torto, che suo fratello non avesse bisogno di comprensione, bensì di totale accettazione, si dispose ad accettarlo, coscienziosa come d'abitudine. Anche stavolta, proprio come con Malcolm Haydock, si comportava come se dovesse addomesticare un animale. Lasciava che le posasse la testa in grembo per lunghe ore, immobile, senza far niente. Daniel, tornando dal lavoro, li trovava sempre più spesso in quella posizione. Accettò quella sua immobilità terapeutica, evitando di interferire. Quella sera andò in cucina a preparare un tè per Frederica. Armeggiò con bollitore e stoviglie, passando rumorosamente da uno sportello all'altro della credenza. Dopo qualche minuto, Frederica lo raggiunse. Mormorò: «È sempre così? Credi che migliorerà?» «Non lo so». «E tu come te la cavi?» «Non so neanche questo». Daniel accennò un breve sorriso ironico. Frederica Potter non gli piaceva. Non intendeva dirle come si sentiva, cosa che peraltro non diceva nessuno. Ma la risposta era che se la cavava a stento. Dotato di un robusto senso morale, si stupiva delle proprie reazioni alla presenza di Marcus e anche di Stephanie. Le sue notti erano popolate di omicidi. Il pallido, innocente Marcus, che massacrava il suo bambino ancora non nato. Il bambino che lacerava Stephanie sotto i suoi occhi, lasciandola dissanguata. Lui stesso, Daniel Orton, che inseguiva Bill Potter nel campo lontano con il coltello di Simmons. E il più spaventoso, il terrore permanente di soffocarlo. La sua mole che accidentalmente schiacciava un bambino, il suo bambino. Una mostruosità sudata e massiccia che comprime e soffoca la sua stessa creatura. Non poteva parlarne a sua moglie, l'avrebbe spaventata, era incinta e faceva quello che credeva giusto. Era sinceramente triste per Marcus. Rimpiangeva le risate e il calore del loro piccolo appartamento. Quei giorni erano finiti per sempre. Non poteva dir nulla anche per ragioni pratiche. I muri erano sottili, l'appartamento minuscolo, il ragazzo sempre inerte ma vigile e nervoso. «Come te la cavi, Daniel?» ripeté Federica. «Le cose cambieranno e ci sarà più spazio nella nuova casa. Supererà lo shock, dobbiamo esserne convinti. E poi ci sarà il bambino». Daniel si soffermò a guardare dalla finestra, come faceva spesso, come aveva fatto la prima sera della loro luna di miele, il biancospino contorto e i solchi nel mare di fango. Frederica guardò con lui. «In casa nostra sono tutti passivi e inerti, come se l'energia fosse indecente. Io lavoro, ma ho l'impressione di essere priva di appigli, completamente alla deriva». «Capisco. Invece tu mi sembri un po'... assediato dai problemi». «Beh, sì», disse Daniel senza voltarsi. «Sono nel pieno della vita. È il corso normale delle cose». L'aveva ripetuto a se stesso infinite volte, ma le sue energie erano corrose dall'ansia. Per la prima volta dopo la sua conversione, ammetteva l'eventualità che gli si impedisse di utilizzare le proprie energie. Avvertì la stessa ombra nella ragazza esile e sciocca accanto a lui. «Dai, che tu si smetterà quando sarai all'università. È solo questione di tempo». «Può darsi. E per te, quando nascerà il bambino?» «Sì». «E Marcus?» «Non lo so, Frederica. Non è il tipo di problema pratico cui sono abituato». Prese le tazze e un pacco di biscotti e tornarono nell'altra stanza. Marcus, afflosciato come uno spaventapasseri di paglia, poggiava il capo sulla spalla di Stephanie, braccia e gambe pendevano immobili dal busto. Stephanie, seduta come una pietà innaturale e goffa, guardò Daniel al di sopra dei capelli chiari di Marcus con un'espressione che sembrava di indifferente pazienza. Era già riuscito a scioglierla una volta, poteva senz'altro rifarlo. Ripeté di nuovo a Frederica: «È solo questione di tempo. Dobbiamo essere pazienti. Tutti». Attesa e pazienza, forme di natività per le quali non era portato. «E neppure Frederica», pensò Daniel senza troppa simpatia per lei. Le porse una tazza di tè e rimasero seduti in un silenzio muto, guardando la coppia statica e passiva sul divano. Non era una fine,